É muito fantasminha, querendo chega sozinho, hein, Ricardo? E aqui é a verdadeira viola da maldade, bebê, vai! Portal do La Rocha! Atenção, atenção, notícia de última hora. A mulher pomba dos árabes passou aqui agora. Ela gosta de tortura, ela gosta de prazer. Ela te joga no chão e muda em cima de você. O bumbum dela vai explodir. O bumbum dela vai explodir. O bumbum dela vai explodir. Ou puxou o pino, ou virou no popô. Vai no chão, vai popô, vai no chão, vai no chão, atira, atira, vai no chão, vai, vai, vai no chão, vai popô, vai popô, vai no popopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop